5F. Ascolta e completa. Se non desideri partire, allora non partire. Se non desideri dormire, allora non dormire. Se non desideri proseguire, allora non proseguire. Se non desideri agire, allora non agire.